Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro ottavo, versi 724-887. Libro nono, versi 1-100. Nella dimora di Acheloo, divinità fluviale, dove Teseo ha riparato con la sua scorta per sottrarsi a un diluvio, il vecchio Lelege ha finito di raccontare la storia delicata e prodigiosa di Filemone e Bauci. Questo mi han raccontato che ragione avevan per prendermi in giro, attendibili vecchi. Io stesso ho visto ghirlande appese a quei rami, ed io stesso ne ho appese di fresche, dicendo: «India l'amor degli dèi, chi li onora, onorato sarà». Qui Lelege smette, e tutti ha commosso la storia e chi l'ha raccontata, Teseo per primo. E da lui che vuole sentire miracoli, il fiume di Calidone, poggiato sul gomito, dice più o meno. C'è chi, una volta mutato di forma, rimane, o fortissimo eroe, nella forma nuova, e c'è chi gode del privilegio di passar di figura in figura, come te, cittadino del mare, che abbraccia Proteo, la terra. Alle volte ti fai vedere ragazzo, altre volte leone, ora cinghiale feroce, ora figuri serpente di quelli che non si toccano, ora toro con tanto di corna. Spesso per una pietra ti si prende, o che so, per un albero, talora nel simulare la trasparenza dell'acqua fai il fiume, talora fai il fuoco, nemico di tutte le onde. Anche la moglie di Autolico ha questa prerogativa. Suo padre Erisittone era uno che se ne fregava degli dèi e mai che bruciasse su un altare un qualsiasi profumo. Pare che abbia violato, fra l'altro, un boschetto di cerere, profanando a colpi d'accetta quelle vecchissime piante. Lì c'era una quercia enorme d'una sua secolare maestà che faceva foresta da sola, pavesata tutta di nastri, di tante ghirlande per grazia ricevuta e tantissimi ex voto. Quante volte all'ombra di quella le driadi ballavano a festa, quante, tenendosi mano nella mano, intorno a quel tronco 15 coppie di braccia ci volevano a chiudere il cerchio, e non bastavano. Quella superava in altezza gli altri alberi di quanto ogni albero l'erba che gli cresceva di sotto. Non per questo Erisittone, figlio di Triopa, si fece uno scrupolo di ferirlo. Ai servi ordinò di mozzare alla base la sacra pianta, e vedendo che quelli esitavano a farlo, strappò la scure a uno ed urlava scelleratamente così: «Non fosse soltanto cara alla dea, ma fosse lei stessa corpo di dea, struscerà la sua cima verde per terra». Ci ho detto: «Che fa? La tempesta con l'ascia di colpi traversi». Trema tutta la quercia di cerere e mette un gemito. Intanto le foglie impallidiscono le ghiande, e uno stesso pallore si irradia nei rami per quanto son lunghi. E come nel tronco la mano sacrilega apre una piaga, dalla corteccia intaccata fiotta il sangue, lo stesso sangue che fiotta dalla collottola squarciata del toro, quando, enorme vittima sacra, stramazza davanti agli altari. Sbalordiscono tutti, e uno fra tutti si azzarda a stornare lo scempio e frenare l'ascia selvaggia. Lo guarda storto il principe di Tessaglia. «Eccoti il premio per la tua pietà», dice, e nel dirlo, dirotta la lama dal tronco, gli stacca la testa. Poi subito riprende a tempestare la quercia, finché quella esala dal cuore una voce che fa: «Sotto questa corteccia una ninfa prediletta da Cerere, io sono, e ti predico che quello che hai fatto presto sarà punito, mio solo sollievo nel lasciar questa vita. Ma lui si ostina nel crimine e alla fine, scossa da quella gragnola di colpi e imbrigliata dalle funi, la quercia crolla e sotto il suo peso abbatte buon tratto di bosco. Terrorizzate per sé e per la foresta, le driadi, tutte insieme, vestite di nero e in lacrime, vanno da Cerere a supplicarla che punisca Erisittone. Annuisce la dea bellissima, col movimento del capo, agitando i campi oberati da una ressa di messi, e architetta un genere di castigo che muoverebbe a pietà, se d'una qualsiasi pietà fosse degno quel mascalzone. Farlo straziar dalla fame. E siccome la dea di persona non può andare da lei, Cerere e fame è destino che non si incontrino mai, interpella una dea montanina, una orea de senza smorfie, rivolgendole queste parole. C'è un posto nei ghiacci estremi della Scizia, un triste paese, una terra sterile, senza una spiga o un albero. Lì c'è il freddo che intorpidisce, c'è il pallore, c'è il tremito, c'è la fame affamata. Comandale di annidarsi nei visceri infami del sacrilego, di non lasciarsi sedurre dall'abbondanza, di non darsi per vinta a tutte le nostre risorse. E tu non ti spaventare per la lunghezza del viaggio. Prendi il mio carro, i miei draghi, e guidali dritta nel cielo. E glieli affida. Quella volando sul carro affidatole arriva alla Scizia ed invetta un massiccio di ghiaccio, lo chiamano Caucaso, libera il collo dei draghi dai finimenti e intravede in una campagna di sassi la fame cercata, che in cerca d'un filo d'erba raspa terra con le unghie e coi denti. Ha i capelli ispidi, gli occhi cavi, la faccia giallastra e labbra bianche di muffa e gola arrochita di ruggine. Traverso la pelle tesa le si leggono gli organi interni. Dagli spigoli delle anche le sbucano ossa. La pancia non è che un vuoto di pancia. La gabbia toracica avresti detto che stava lì appesa al traliccio della colonna. Il deperimento enfatizza le articolazioni. Le rotule sono due bocce, i talloni due escrescenze schifose. Come la vede, la ninfa le riferisce a distanza, non è il caso di andarle vicino, il messaggio di Cerere. E subito, quantunque stia sulle sue, quantunque sia lì da un istante, comincia a sentire i morsi della fame, fa dietro front e tirando le redini ai draghi vola in alto e rientra in Tessaglia. La fame, sebbene in via di principio nemica di Cerere, esegue le disposizioni, si porta sulle ali del vento alla casa indicata ed irrompe negli appartamenti del nostro sacrilego, che ella accoglie sprofondato nel sonno, infatti è notte, e così lo stringe fra le sue braccia e gli si soffia dentro, riempiendogli bocca, gola, polmoni e nel cavo delle vene diffonde il digiuno. A missione compiuta, lascia il mondo abitabile e torna al suo sordido covo nel suo paese di sempre. Il sonno carezza Erisittone ancora con le sue morbide ali e dormendo lui sogna d'aver bisogno di cibo e muove a vuoto la bocca, strofina i denti sui denti, stanca la gola a inghiottire pietanze fantasma ed invece di vivande ingurgita invano il tenue nulla dell'aria. Appena scacciato il sonno, lo assale una voglia furiosa di mangiare che gli spadroneggia nella gola e nei visceri in fiamme. Tutto quanto producano il mare, la terra e l'aria pretende, e davanti alla mensa stracarica si lagna di stare a digiuno, chiede cibo sommerso dal cibo, ciò che basterebbe a città intere, a popoli interi, non basta a una sola persona. Più roba si caccia dentro, più gliene resta la voglia. Così come il mare raccoglie i fiumi da tutta la terra e, insaziabile d'acqua, si scola sorgenti lontane. Così come il fuoco rapace, nessun alimento ricusa, e brucia una serie infinita di tronchi, e più gliene danno, più ne vuole, e la stessa abbondanza aumenta la voracità, così la bocca dell'empio erisittone ingolla pietanze, reclamandone sempre delle altre. Vivanda chiama vivanda, ma tutto quel che si insacca non produce che vuoto. E già la voragine dello stomaco senza fondo ha assottigliato i beni di famiglia, ma la ferocia della fame dura imperterrita ed implacabili durano gli spasimi della gola, finché, sperperato ogni avere, non gli resta più che una figlia degna di padre migliore. Nella miseria lui vende anche lei, ma lei fiera ricusa di andare a padrone, e tendendo le mani sull'acqua del mare, esentami tu dal fare la serva, tu che ti sei preso il lusso di sverginarmi. Nettuno se l'era preso e accoglie la sua preghiera. E per quanto ormai l'acquirente la tenesse sott'occhio, la cambia di forma, assegnandole l'aspetto di un uomo e il costume d'un pescatore. Alla vista il compratore dice: «Tu che a un gancetto di ferro appendi un frammento di cibo e manovri a dovere la lenza, beh, ti auguro il mare ti sia tranquillo e credulone il pesce si accorga dell'amo solo dopo aver abboccato. Ma quella che un attimo fa mal vestita e spettinatissima era su questa spiaggia l'ho vista». Che fine ha fatto? Non vedo orme che si allontanano. La ragazza constata che il Dio le ha fatto la grazia e, felice che le stiano chiedendo di sé, risponde con queste parole: «Perdonami, chiunque tu sia, ma io non guardavo che l'acqua e ho tenuto lo sguardo incollato al lavoro che faccio. Per dissipare i tuoi dubbi, il Dio del mare mi assista nella pesca. Se è vero che, eccetto chi ti parla, su questa spiaggia non c'è stato da un pezzo nessuno, né maschio né femmina». Il padrone le crede e, affondando nella sabbia le pive nel sacco, torna sui propri passi. Lei riprende forma di donna. Accortosi che sua figlia è commutabile, il padre, figlio di Triope, la vende ora a un padrone, ora a un altro, e lei tutti li pianta, volta a volta cavalla, uccello, bue, cervo, e al padre procura viveri che non si merita. Quando però la violenza del male ha bruciato tutte le risorse possibili, dando al morbo ulteriore alimento, prende a strapparsi braccia e gambe a morsi, erisittone, ed a nutrire il suo corpo riducendolo, il disgraziato. Ma perché parlo degli altri? Posso anch'io, ragazzo, cambiarmi di corpo, sia pure in un numero limitato di corpi. Infatti ora sembro quello che sembro ora, ora un serpe, ora in testa alla mandria, affido tutto il mio prestigio alle corna. Alle corna finché potevo, vedi bene che all'atto ho metà fronte in disarmo. Parole completate da un gemito. L'eroe caro a Nettuno gli chiede il perché di quel gemito e di quel corno spezzato, e il fiume d'Etolia, Acheloo, con quei suoi capelli in disordine, coronati di canne, attacca. Mi chiedi un triste favore. Chi racconta battaglie perdute volentieri? Comunque sarò minuzioso, perché la sconfitta non fa vergogna, quando è una gloria l'aver combattuto contro chi della sua grandezza mi ha onorato vincendomi. Fra un discorso e l'altro è possibile ti sia giunto all'orecchio il nome di Deianira, ai suoi tempi ragazza di strepitosa bellezza, bramata e contesa da un nugolo di pretendenti. Irrotto con loro in casa del suocero ambito, per genero dissi Eneo di Calidone, prendimi. Lo stesso diceva Ercole, gli altri erano tutti tagliati fuori. Le portava un Giove per suocero lui e il vanto di aver superato le sette fatiche ingiuntegli dalla matrigna. Io ribattevo, sarebbe uno scandalo un dio battuto da un uomo. Ercole ancora non era dio. Hai davanti agli occhi il re delle acque che tracciano serpeggiando tutto il tuo regno, non un genero qui piombato d'oltre confine. Io sarò uno della tua gente, uno dei tuoi, solo che, mi domando se sia una colpa, io non godo dell'odio regale di Giunone e nessuno mi ha mai condannato ai lavori forzati. Quanto poi alle tue millantate ascendenze, figlio di Alcmena, o Giove non è tuo padre, o è colpevole di essere tuo padre. Lo vuoi per padre? Stai dando della Troia a tua madre. Decidi, o la storia di Giove è una balla, o è una vergogna che tu sia nato. Tanto che parlo, lui mi guarda con l'occhio torvo e avvampa di collera e stenta a controllarsi finché non sbotta. Son molto più forte con le mani che con la lingua. A chiacchiere vincimi pure, a me basta vincerti a botte. E mi salta addosso come una belva. Con quello che ho detto non posso squagliarmi. Mi strappo di dosso la veste verde, mi metto in guardia, divarico le braccia, le mani pronte ad abbrancare, e son lì rassegnato al combattimento. Lui mi spruzza addosso polvere raccolta a piene mani e, coperto di rena d'oro anche lui, mi si fa tutto biondo. Ora tenta di prendermi al collo, ora alle gambe, ora simula questo o quel tentativo e mi attacca da tutte le parti. La mole mi fa da garante col mandargli a vuoto gli assalti, quasi fossi una rupe investita dai flutti, con grande fracasso che non si scompone, protetta dalla sua stessa massa. Per un attimo ci stacchiamo e già torniamo a scontrarci, piantati lì dove siamo, decisi a non ceder d'un palmo, piede contro piede, e io tutto sporto in avanti, con le dita gli premo le dita, con la fronte gli spingo la fronte. Ho visto cozzare così due tori enormi, se posta dello scontro era la femmina più bella del pascolo. Assiste spaventatissima tutta la mandria, chiedendosi chi avrebbe vinto, chi avrebbe regnato su tanto reame. Tre volte senza successo l'Alcide fa per sottrarsi alla pressione di questo torace. La quarta però si sfila dalla tenaglia delle mie braccia e, spingendomi via, con una mano, promesso di dire la verità, mi fa ruotare e mi avvinghia alle spalle con tutto il suo peso. Dammi retta, non sto millantando chissà che per far bella figura. Io mi sentivo schiacciare come avessi in groppa un monte. Non di meno riesco a insinuare sotto le sue le mie braccia viscide di sudore e a sciogliermi dalla morsa. Ansimo, lui però non molla, non mi consente di rifiatare, mi strangola stringendomi il collo da dietro, finché, ginocchioni, non sono costretto a morder la sabbia. inferiore per forza e coraggio, ricorro alle mie competenze, così gli sguscio di sotto in forma di lungo serpente. E lui, nel vedermi tutto serpeggiante, in spire tortuose, e dimenare con orrido sfrigolio la lingua forcuta, scoppia a ridere e si fa beffe dei miei trucchetti, il tirinzio. Strozzare serpenti è un mestiere che pratico fin dalla culla, e anche tu fossi in grado di batter qualsiasi bestiaccia, quanti te ci vorrebbero, Acheloo, per un'idra di Lerna? Le sue ferite gemmavano, e non potevi mozzarle impunemente una testa delle tante che sul suo collo, più robusto di prima, non gliene spuntassero due. Beh, quella che dalle ferite ramificava serpenti e scemando cresceva, io l'ho domata e data alle fiamme. Dove conti di andare, sfoggiando armi che non padroneggi, illuso di farla franca, truccato Acheloo da serpente? Detto mi afferra in cima al collo e stringe le dita a cappio, attanagliato alla gola, per poco non soffoco, e per sottrarmi a quei pollici mi dibatto con tutte le forze. Sconfitto anche serpente, non mi resta che assumere i tratti minacciosi d'un toro, e toro torno a combattere. Lui da sinistra mi serra con le braccia il pendulo collo, e trascinato da me mi trascina, pesandomi addosso mi pianta le corna per terra e mi schiaccia giù nella polvere. Non gli forza di stringermi ferocemente un corno, duro com'è, me lo spezza, mutilandomi mezza fronte. Le naiadi poi l'han colmato di frutti e profumatissimi fiori e me l'han consacrato corno dell'abbondanza. Non ha concluso che appare con la veste corta del seguito di Diana e i capelli sciolti su ambo le spalle una ninfa che porta a concludere il pranzo il corno che appunto trabocca di frutta tutta la frutta deliziosa del tempo d'autunno. E spunta il giorno. Appena il primo sole lambisce le cime dei monti, i ragazzi se ne vanno, senza aspettare che il fiume si acquieti, ritrovi il suo placido flusso e le acque rientrino tutte nel letto. Nella propria corrente Acheloo immerge la ruvida faccia e la zucca col corno spezzato. Però, sfigurato che sia da quella mutilazione, per il resto lui se la cava, e il danno patito alla testa può schermarlo con foglie di salice o con una cuffia di canne.